Sciuri si è frasi per definizione, la chiamata, tu i dati, ce li vuoi dire quanti watt hai, che affari che stai usando. Poi saluti e baci a tracci. Ciao Marco, ma non te lo chiedono mai che rapporto hai, a volte è così, qualche spagnolo mi è condizione di tabacco, Claudio, è condizione di tabacco, ho detto un 7004 dell'ICOM, antenna IAGI, monobanda, tre elementos, vatos de lineare amplificatore, de 500 o 600 vatos, non basta, proprio uscire la gaggata. E poi alla fine dico, ok, alta la vista, vamos a Antrenda, ciao! Eia, eia, no, magari è curioso il corrispondente, oppure è curioso io, ogni tanto mi fa piacere, come in 27, sapere le condizioni di lavoro, il watt, la penna, così, e al limite l'apparecchio, là. Ma giusto per curiosità. Ma sono sempre scelte tranzate, chi ascolta gli essendo più L lo sanno come funziona, capito? Poi è chiaro che, come dice Gianni giustamente già, ma non è che io dal 93 a oggi sono cresciuto tantissimo, ma all'inizio io avevo un VHF, un UHF per fare proprio veicolare, che ce l'ho ancora qua vicino a me, quello non l'ho mai dato perché il mio storico 702 della TV del Bibanda dove io ho iniziato quando ero 1+0 mi serve per così per fare altre cosettine, per ascoltare, perché quelli che abbiamo noi amatoriali non sconfinano e quindi quello sconfina, quindi lo prego sempre per seguire un po' l'andato. Ma avevo quello lì il 430, basta, che ho sempre, queste sono le vecchie radio storiche. Poi chiaramente cresci piano piano, un anno compri una radio, poi magari un altro anno ne compri un'altra, poi ti capita l'occasione, ah, è uscita quella, aspetta, verso questa ne prendo una. È come la macchina, una volta che ne hai una, poi la fai girare, capito? Perché io ho sempre versato e comprato, adesso è un periodo che sto solo comprando, ma sto versando. Però se c'è il tanto per poterlo fare, se non c'è il tanto è chiaro che non te ne esci di casa. Per quanto riguarda le antenne vanno fatte piano piano, perché le antenne stanno costando più delle radio, quello senza ombra di dubbio. È chiaro che sono d'accordo con te, però la passione è passione, io ti ripeto, nel 93 sono diventato radioamatore, e non è oggi, sono tantissimi anni fa, però ho fatto tantissima attività da pirata, sempre con le radio HF o baracchino, non ne ho mai avuto, già negli anni che furono, perché comprai il 430 da Mario Rottari, col TL922 facevo 27, quindi immagino già di due, quindi è così. Elio, cambio. No, è così. E sono quello che... Già, sono Roberto. Ciao Marco, scusa, non ho ascoltato. No, è solo questione che se ti prende ti prende. Se ti piacciono 27 ti piacerà anche le altre frequenze. Cioè, se ti piacciono anche queste ti piacciono tutte, non solo una parte. Tu vedi tutto. Io lo consiglio, più sinceramente, perché non lo so. Non mi piace spaziare, cioè non è che prega le 7.4, chiuso tra 27, non va bene, dai, quindi ti muovo, ti invito, te lo do io, e ti assediare. Elio, tu non sai le condizioni come sono, qua io per mettere questa antenna, non c'è solo qua, io quello che ho lottato per mettere quella della 27, immagino che se mi fanno mettere altre antenne, ma una casa in campagna, puoi fare quello che vuoi, fossi stato come te l'avrei anche fatto, ma qua è un casino, a parte che poi mi toccherebbe visitare come a Uglie, perché il cazzo non vuole comprare il radio, questo e quell'altro, e girare scatole, c'è ancora la roba nuova, questo e quell'altro, no, sono un bel di cose che mi bloccano e non fa, ci sono tanti motivi. E lo so, però, vabbè, ti toglie sempre quelle persone. Tu l'hai conosciuta mia moglie, no? L'hai vista come si aggira a stringere i bulloni e vabbè, ma non sono tutti uguali, mia moglie non la sopporta la radio, figurati, non può vedere manco quella da 27, figurati un po' se mi dava una mano a piazzare l'antenna. dice, vabbè, mi voglio dare, e ti parla, c'è, io stimo un po' con la Kerry, che è una persona che mi sta a fianco, capito, io ci do per tutto, io ci sono di seguire, il suo mio sta a fianco per lei, qualsiasi cosa. Va bene, dai, Marco, riprendi la classe. Comunque, anche non potendo piazzare ante nessuno, almeno per il momento, guarda Vittorio, lui dalla macchina si fa le HF come niente fosse, poi parla in uno e uno stesso dalla macchina, si chiede una bella antenna, magari monopanda, perché purtroppo veicolari, cioè quelle con lo spinotto e le varie prese è una cagata, te lo dico, va bene per l'ascolto e basta. Eppure riesci a lavorare dalla macchina, basta andare in punti elevati tipo San Francesco, tipo Usilo e anche altri posti, riesci comunque a fare un'ottima attività, Tu, Marco. Dimmi qua. Vittorio c'ha 1000 euro di amplificatore con la macchina, vedi? Ehi, vabbè, ma anche con i 100 watt dell'apparato puoi farti di ex, basta trovare un punto abbastanza elevato. Poi ho visto che Vittorio c'ha quel faro, no, da 20 metri, quel tubo in plexiglass, mi pare sia, no? Sì, ma Vittorio è fatto dal nord Salvegna come mobile, una di quelle più forti, una forse la più forte che c'è nel nord Salvegna, capito? Perché lui lavora, parla in HF, come noi stiamo parlando del 27 anche dentro la città, io lo sento spesso, ci sentiamo 40 metri, 20 metri, 10 metri, lui parla normalmente, fa questo normalmente, anche stamattina era 40 metri, tutti erano a Roma, fuori insomma in Alta Italia, lui era in via Mosca che stava cercando posteggio, arrivava 5-9 più 10, ma c'è un bestiame di amplificatore, ma anche un impianto, c'ha due batterie, c'ha la doppia alimentazione, capito? Ha fatto fare un impianto con la macchina che è pauroso, ha speso una barca di soldi, proprio perché lui lavora dalla macchina, però il discorso di Gianni è molto delicato, a prescindere, vabbè, che la moglie possa vedere o non vedere, ma lì il problema delle antenne diventerebbe un continuo litigio, perché dal momento in cui lì su manco ti danno accesso è un casino, capito? Non fa, io di manco 5 minuti sarei stato, per la passione che ho, assolutamente, non proprio 0-0-0, è un palazzo molto molto molto preciso, non ti va a tenere a nulla, tutti lamentosi, il baracchino, non arriva il baracchino, quello che lo bussa al muro, ma stai scherzando, no? Se mi ha fatto un casino io per montare con antenna, con un vento che c'era da ammazzarsi c'era, non si è aperto. Va bene, dai, signori, io vi ho sentito, Elio, quello che devo dire te l'ho detto, Marco Elio oggi ha dato l'esame, te lo dico io, ha dato l'esame, capito, è stato promosso, quindi anche lui appartiene alla categoria radioamatori CB, o per meglio dire CB radioamatori, come me, quindi, è così. Adesso prendi il colpo di grazia con ogni anno, io mi incazzo, sai perché? Perché noi paghiamo 5 euro per la banda amatoriale, quindi detenzione e uso di apparecchiature amatoriali, 5 euro, cazzo che sono a livello mondiale. Devo pagare 12 euro, battimiro, da 12 euro. Mi si girano così da balle, è una cosa allucinante. Marco, riprendi la però. Ottimo. Si sentiva che avevi quella passione lì. E quindi una buona cosa, naturalmente non ci abbandonare, ogni tanto viene anche 27 come stasera. Ho visto che c'è il CB, magari ex CB, io vi parlo dei tempi passati, hanno mollato la 27 anche più tratti. Stavano radiatori e ci abbiamo mollato anche la banda amatoriale, come da Carlo Spinero. Vabbè. Ognuno con le sue regole. non so cosa dire. Vabbè, è una passione che ce l'abbiamo tutti comunque, non è che ce l'ho solo io, se siamo qua, perché ce l'abbiamo tutti, non è ce l'ho io o ce l'ha lui, ce l'hanno tutti. Poi c'è chi vuole coltivare di più o c'è chi vuole invece rimanere lì, però a me mi fa piacere se gli altri seguono, capito? Solo quello, io stamattina ho visto una ragazza di La Musée che era fianco a me, ed era preparata, si vedeva che era preparata, vabbè, questa era la seconda volta, comunque la seconda volta, la volta che andavo, e l'hanno promossa. È una ragazza, 26-27 anni, fa piacere, cioè, vedi, si sta popolando anche di donne, fa piacere. Ci vuole, capito? Vuole così, sia la bella sette che gli altri 40, 40, 80, tutto. Se ci sono anche donne fa anche piacere parlarci, no? Io sono anche avuto un corso in diretta con lei, e una gamba simpatica, fa piacere anche tanti quando c'è anche in radio, sicuramente. Capito? Hai gusto di riuso? No, il libro è andata. È troppo poche sono le donne però, che prendi Gianni? Ma io la mia risposta l'ho già data, io non è una cosa che mi interessa, dico la verità, però poi avrei anche delle difficoltà con condominio eccetera, non aggiungava di lottare, non è quello che sarebbe lo tranquillo, già c'è Marco che impara noi in questo periodo che stava facendo tipo altro. Mi dico, non è assolutamente vero che non ce n'è donne, Marco. Ne è un bel me. Quando materiale ce ne sono tante donne. Sì, io in HF sento uomini e ancora uomini. Io di donne ho sentito solo quelle signore di una certa età sul ponte nazionale Cisa. Sì, decisamente. E poi per il resto no. E quelle sono quelle mogli di chi si perdona, che sta tenendo sempre il chivi sul WhatsApp, quando sono in contest, vedi, ce n'è un bel, anche oggi mi c'era un contest in 40 metri, ce n'erano 7-8 che chiamavano, grazie a Renato, ma ogni volta a livello Claudio Spagliero, avessi tirato, si tira addosso la matracca, io tutte le volte che la sento, mentre la saluto, c'è una motivazione favolosa. Mamma mia, io quando la sento sembra la luce del mattino. Comunque a me piacerebbe fare, se non da casa, l'attività della macchina. Ma se vi dico una cosa, non è che mi arrocciate, no? E cosa, se svendi? A me sarà quello che sarà. Sarà volgare veicolare, avrà problemi dei filtri poco interni, ma a me piace l'FT 857. E ci fai HF 50 VU. Cosa vuoi? Cosa vuoi di più per la macchina? Io ho 706, è uscito prima dall'857 della Icon, quello della IAESO, quello della Icon, e quello in banda lo stesso, VHF, HF 50 mega, tutto a 100 watt, ma lì fermo da una parte, cos'è mi botto? Metto a parlare con 706, con la 7004, l'FT1000, adesso ho comprato un 940, che grande quanto è l'FT1000, è sempre acceso, ma blu plus dovevo ancora spegnere. Cosa ne faccio? Quello ce l'avevo in macchina, l'ho tolto, però hai ragione tu, con una radio fai tutto. Ma io ne ho avuto tante, anche il DS2000 la stessa cosa, quadribanda, ma a me non mi piace. Io ho una radio, Marco, una radio per ogni banda, ti ho detto tutto, una radio per ogni banda, radio però è, non radiolina, radio. Anche lo spazio non è da trascurare, io qua non è che posso tenere molto, vabbè, si vedrà. Comunque Claudio, per la cronaca, io non faccio TV a nessuno, però è successa una cosa, praticamente questo ha detto, è stufo perché mi sente negli altoparlanti del televisore, e io ero, nota bene, con un watt, o watt. Col filtro HTWI messo da me per l'eventualità, 5 celle che attendono 80 dB dai 60 ai 900 metri. Ebbè, questa iniziativa nelle casse della componente della televisione. Quindi secondo me quello di disturbo di bassa frequenza non è più guai, anche perché un ricevitore digitale non può sentire la modulazione mia in analogico. Sono d'accordo con te. È così, però per lui tu lo stai disturbando, ha rotto le palle sempre ha rotto le palle. Io c'era un periodo, io sono di poche parole, capito? Siccome posso rispondere molto tranquillamente, non me ne ha fatto nulla. Questo di vicino mi sentiva nelle casse del computer. Mi ha detto una volta, mi ha detto due volte, ha detto vabbè, non so. La terza volta mi ha trovato con i coglioni di gatto, ha detto una cosa, prendi le casse del computer, le stacchi così non mi senti più, capito? Ah, io devo sentire la musica, io devo parlare, vai a girarmi i coglioni. Non gli ho detto più niente. Poi se hai problemi, chiama chi vuoi e girami le balle. Proprio l'ho detto, dici mi nera guru, capito? Ma ti non me ne affrutti nulla, ma ti pare me devo preoccupare che tu mi senti nella cassa del computer, ma cosa me ne affrutta a me? Arrangia di comprare già del gassimonio, se no comprare già di un computer come televisione, invece comprarlo dai cinesi. E non mi ha più, quando mi vede, ciao ciao, e non mi ha più detto niente, vai a girarmi le balle, capito? Intanto cosa mi va da me? Non mi va assolutamente niente. Ed è proprio, non il 27, è proprio in banda materiale, se mi sentiva, proprio magari quando pompi un pochino, a me non mi interessa, non me la fa tenuta, capito? Doppio root. Rotture sono sempre rotture e a me ne hanno fatto un po' per i battaglie, hanno fatto anche una riunione da poco perché uno voleva prendermi l'antenna ma gli altri non hanno accettato. Ancora i miserabili, sì. No, a me da poco sono venuti, se vedavo le chiavi di su, se le facevo la coppia, non ho capito, la coppia, infatti casa lui ha guardato la coppia. Io ti accompagno, ti faccio entrare, controlli le antenne per fare il preventivo, uno di Paolotto, se mi fa la coppia, se mi dà la coppia le chiavi, ma di casa mia, Atenale, è un casino. Se così da voi guardare su di bianco. Vai. L'ho accompagnato su, ho detto attenzione quando venite per fare lavori, i veri cavi tutti fascettati, che non trovi un cavo spostato perché mi ci butto giù. Anche io già lo sai come l'ho messo, no? Aspetta, l'ho messo il tirante proprio per farli scendere in modo che non andassero in terra. Ma io ho i cavi, ho tutti i Bicom, ho tutti l'H510, la Camille, tutti fascettati, canalati, che scendono dall'antenna e entrano dentro il pluviale. Siccome le antenne TV sono a fianco da dove passano i cavi, viaggio a dito, occhio, perché se salgo e trovo, ne prendo le antenne che avete piantato ce le butto giù, e qua non sale più nessuno, se dovete fare lavoro prendete l'autoscala. Il terrazzo rimane il tuo. Tutto mio, suo. Ma non è che c'è una legge che dice che ognuno è proprietario di un pezzo del tetto? No, sono due scale separate. C'è mansarda da una parte e mansarda dall'altra. Ecco, ho capito. Nel mio risulta così. Ma te lo ricordi per quel cassero che ho messo, il casino che ha fatto quel coglione? Perché dai, che te la cosa quello da bancabu, questo video, per un tassello a occhiello per agganciare il tirante, il surugasino che ha fatto alla fine, cioè non mi tocca toglierlo, ve lo mettiamo da un'altra parte perché sennò c'era bisticciare. Se soltanto io ne avevo buttato 4 di tasselli. Nel muro condominiale, ma non nel muro di casa sua. E dopo se non dovevo andare dopo un mese, doveva lasciamo perdere. No, ma infatti poi la passione anche per quello, poi io ho abitando qua. Quando l'abbiamo portato subito a abitare qua, no, ho detto cazzo, qua posso mettere anche quello che voglio. E da lì mi è ripartita l'idea, e tutta l'idea è ripartita da lì. Cazzo, qua non mi seguo nessuno, qua Sì, vabbè, lo so, sono solo il ballo. Io ho una cosa in la casa nostra, e quindi potrò mettere soltanto quello che vorrei, però c'è per gente che mi ha provato il ballo e ce l'avevo anch'io. Gli altri venivano a casa, e mi dicevano, ma scusa, ma di quale stanno venendo? Non è il caso che sarà che questa roba. No, va, fai capire. Io sto pagando, ho l'autorizzazione, io potrò fare, quindi sono loro che sono cambiare le cose, non io. Però è così, sono tutti dei bar e basta, purtroppo è così. Non è quello, ma io sono fortunato qua perché posso fare quello che voglio. No, la prima palattina ce l'ho di fare a 500, 700 metri, forse anche di più, ma figura. Lo so, io avrei cambiato casa. Fai come ho fatto io, che per avere la sala radio sono sceso al secondo piano e mi è costato 370.000 euro. Per carità, che pazzia. Ma se stamattina ero con l'amministratore del condominio, perché stanno, è venuto a verificare dei lavori, sono andato a fare con il giardino, no? Mi scambio giù col cane. E niente, siamo messi a parlare, salutato. Ma te beh, come si è messo sul tetto? Come mi sopra la testa, ha visto l'altra direttiva che ho messo, siccome è napoletano, allora, ma te me cosa vuoi Riccardo? Non va bene, no, non va bene, devi mettere altri due tiranti, è pericoloso, qua, metti altri due tiranti, anche tu mi siamo andati, vai, ma mi dicevi di toglierla, cazzo, mettere altri due tiranti, mi ha detto. Ma poi lo sanno che viva Dio, la parte che ancora meno puoi fare quello che vuoi, perché sei abilitato a poterlo fare. Perché molta gente purtroppo si compra delle apparecchiature elettroniche che non servono, comprate magari a due lire, è chiaro che poi quelli non hanno, per non per le spurie, è normale, che non hanno, non sono adatte, non sono adatte, però ti mettono a te in condizione di bloccarti la tua radio, la tua stazione, perché loro hanno quel caso che dice magari Claudio al computer da 15 euro, a quel punto è rotto, 30 euro, 40 euro, 40 euro, come due case siriane. Ma il discorso che fanno loro, dice, il televisore lo vedevo bene prima che piazzassi le antenne, adesso che sono le antenne non lo vedo più bene, la colpa è tua. È sempre così dicono. È bene, normale, no, se vedono l'antenna, la prima cosa che la colpa è tua, è normale, no? E beh, è normale, no? Però io l'avevo dimostrato il contrario, ho detto vieni a casa mia e vieni anche la televisione non fa quello che fa a casa tua. Scusa, vuol dire che il problema di fondo è la tua televisione, non è il mio. Non è il mio. Lasciamo perdere. Vabbè già, vedi tu, mi dispiace se ti sei in questa situazione, perché soprattutto uno che c'è la passione, cazzo, piante le piattere io qua, insomma, figura, e viene una persona o due persone che non fanno, ma non esiste più, capito? Allora io ti faccio la cronaca, guarda devo dire grazie a Claudio che io ho l'antenna sul tetto perché io per me mi ero già arreso, è stato lui che mi ha spronato a metterlo, vero o no Claudio? Ehi, hai detto no, noi stiamo venendo e stiamo piazzando l'antenna, c'era un maestrale il giorno a casa, e gli ho detto giorno vai bene, guarda che cosa ti faccio, ah me che ci dai io attacca. E altra due sopra, che la scala rovinava il tetto, che il manto, c'era il manto di coso di. E a parte c'era la ghiaia sopra il coso, sopra il catrame, dice che rovinava il catrame con quella scala, cazzo. Poi stavamo attaccando i tiranti perché c'era il vento al cammino e ha detto che se le buttava giù il cammino, se cadeva addosso la gente la responsabilità era la mia. Poi nel comitato che si disturbava l'antenna, guarda, mi hanno fatto la lettera del condominio, che l'antenna disturbava l'antenna televisore, allora gli ho fatto cambiare l'antenna televisore a loro. E quando è venuto il tecnico che ti è rimasta in mano l'antenna, c'era anche io, c'era questa antenna mia, hanno detto che è nuova, i tappeti, l'altra canta era piena leva, il demiscelatore, tutto canto. L'ha fatta mettere nuova, capito? Ah, ma io sono dei grandi muti che sono barato, via. E Maria Chiesa Rucci non aveva detto che l'avevo fatto io apposta. Ah, io l'avevo fatto tu apposta, mettendo i tiranti. Ma no, tirando, gani molto, che. E gli articoli sul giornale, Elio, te ne faccio vedere di cosa sei voi, ci ho letto il condominio, articoli sul giornale che mi hanno messo, biglietti di sotto il portone, ogni lotta. No. Allora, non mi do tutto, ho dato anche la fatta, peccato che io, ma se ne vanno loro, me ne vado via io. E vabbè, uno già si è impiccato, quindi uno è fuori. Allora, colpa di un po' di corda, cazzo, li metti lì, che si aspetta a voi. E ho detto così, lascia perdere, non mi ha. E va bene, Marcolino, lì, parcheggio sì. Oh no, stavo ascoltando. C'è un ragazzo che ha fatto sapere su un forum che ha lo stesso problema che aveva Gianni. Ma questo in ogni modo, in ogni maniera non gli vogliono far mettere l'antenna. Hanno fatto un'assemblea di condominio per vietargli di mettere l'antenna, che non vale per niente, anzi non vale niente. E gli vogliono impedire anche fisicamente di accedere al terrazzo. E quindi questo sta andando per vie legali, per farsi riconoscere quella legge per il diritto di installazione di antenna. Per fortuna qua la cosa è diversa, come nel 92, come un anno fa, non ho fatto storie, devo cambiare l'antenna, ok, cambiata. E fino a oggi ero tranquillo, se non che questo ha telefonato. A parte che a me non ha mai detto nessuno, scusi, può fare qualcosa, la sento, no, questo ha telefonato. Adesso sono stufo di sentirvi, di sentire o sentire la sua voce nel televisore, ha risposto mamma, sentire la sua voce nel televisore, bla bla bla bla, oh, non me ne frega niente se avete la licenza, se è tutto in regola. E poi ha chiuso, non so chi sia, ha detto un cognome, ma qua di quel cognome ce ne sono tre o quattro, non ho idea di chi sia e si è girato in malo modo. Mezza idea ce l'ho, ma vediamo, staremo a vedere, dai. E comunque c'è un'altra cosa che volevo confermare anche Claudio, che vedi, forse facendo la patente hai meno problemi, ma non per altro, perché se ti scrivi anche un'associazione, che ci sono le associazioni, no? Ti possono scegliere loro, e poi, ma soprattutto, hai anche un'assicurazione, no? La situazione è, se non ti fa volare, capito, già un'altra cosa in più che hai. Fai una fesseria annuale, ti scrivi una associazione, e più se tu hai questi tipi di problemi, lo togli per farti fare l'antenna, capito? Perché te è un obbligo, se tu hai la patente e devi avere il tuo antenne, punto. Cioè non comanda nessuno, capito? Comanda solo la patente, boh. E se trovi quello ottuso si decidirà anche lì, perché so che a gente gli hanno detto cosa c'è con la patente. Se trovi quello ottuso e non può saperne di nulla, non c'è verso. Sì, ho pur di terminare e poi si paga tutti i danni, no? Guarda, nella nostra patente, anzi nella licenza, Elio, se te lo appiccicano, perlomeno nella mia c'è scritto, perché licenza vecchia, adesso sono diverse, c'è scritto che noi radioamatori possiamo installare in qualsiasi, da qualsiasi parte, tranne che in aereo un ricetrasmettitore, capito? Io sono in treno, prendo una base magnetica, l'attacco al coso del treno, mi metto a trasmettere, solo in nave, da tutte le parti, capito? Da tutte le parti. Perché non patente ministeriale, capito? Quindi sono diverse le regole, Gianni, sono diverse. Noi automaticamente, una volta che si rilasciano la patente ministeriale con la licenza, c'è automaticamente l'iscrizione alla protezione civile come operatori radio, quindi io sono stato in Valtellina ad esempio, quindi non ho fatto altre cose perché non mi interessa, tutte le prefetture d'Italia, tutte le prove delle prefetture, quindi è diverso il sistema di lavoro, però la legge è uguale anche a quella dei CB, è uguale, ha diritto il CB all'installazione dell'antenna come ha diritto il radioamatore, poi giustamente dice Gianni, allora sono andati a cagare, lì c'è poco da discutere, poco da fare, oppure metti in pratica le leggi, quindi siccome l'Ari ti tutela, c'hai i suoi avvocati, quindi intervengono gli avvocati e tu la tengono la piazza automaticamente. Il discorso è quello, però c'è sempre da lottare, hai ragione Gianni, c'è sempre da lottare, se non c'hai il posto, se non c'hai dove, è un casino, io non sono venuto qua, è ancora cantiere, ho fatto mettere le staffe, tutto su, tutto pieno di staffe nel mio tetto, tutto, capito, tutto, infatti dicevano i quelli del cantiere, ma non se non siete, le piazze, metta muri staffe, metta una qui, metta tutto in giro, palazzo, tutto staffe, tutte murate, c'ho accesso a tutte le parti, in tutti i posti ma sono per i tubi, capito, è stato subito l'antenna, subito, avevamo ancora con luce di cantiere, quindi via, amplificatore, immagino che c'erano un po' concorrente dei cantieri, che non pagava nessuno, pagava l'impresa ancora. Non mi ha detto niente nessuno, assolutamente. Poi ho iniziato a mettere antenne, non so appunto quello che avevo, quindi non me la fatti avuta, ma l'Escoradio in quegli anni ce l'avevo sempre parcheggiata sotto casa. E alla fin fine anch'io me l'ho presa per la detenzione e l'uso, non di certo perché avevo questa grande passione dei collegamenti e di fare grandi cose. Piano cresci e quindi è chiaro che la passione diventa un pochino più costosa, tutto qua. Va bene, visto con il microfono vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao Marco, ciao Gianni, ciao Elio, di nuovo tantissimi auguri, fatti sentire presto, appena ti arriva la licenza vieni qua e trasmetterà qua come secondo operatore, non c'è problema, con il mio nominativo secondo operatore Elio, lo puoi fare tranquillamente, da qualsiasi stazione radio con nominativo più di 10 anni, quindi non ti preoccupare. Ciao a tutti, Marco per te il microfono e ci sentiamo domani, un saluto a tutti, buonanotte. Ciao Claudio, buonanotte, ci sentiamo alle prossime. Ok, io mando per radio. Ciao Claudio, buonanotte, ti ringrazio ancora per la UE. Dai, appena arrivo vediamo un attimino, no, prima la voglio vedere con il culti, ma anche perché stavolta ti racconto un aneddoto che è stato bellissimo, e quando sono entrato mi ha chiesto il nominativo e fa, ah, aspetti, non lo potete confondere perché forse sotto di me c'era qualcuno che non è entrato, e fa idoneo, però va detto la voce bassa, no? E ho capito io idoneo sì, però ho capito, ma non l'avevo capito bene. Allora ho detto ringraziati, io sono stato detto grazie, sono stato così, ma mi ha detto idoneo, non ho vinto. Quando dopo però sono uscito, ci sono andato, ho detto scusi un attimo, ma sono idoneo o idoneo? No, ma sto pensando idoneo. Ah, è dubbio che non l'ho capito bene. Ma avete telefonato, io che già lo sapevo, che tu, io l'ho saputo, perlomeno noi l'abbiamo saputo, la di Matteo Sassi l'abbiamo saputo appena avete terminato il compito. Quando ti ho chiamato a te che di macchina, mi hai riconosciuto quando ti ho detto, sono ingegnere di Dio, devo tornare indietro perché c'è un errore nel compito. Mi avevi riconosciuto o te l'hai detto a te? No, no, ti ho riconosciuto dalla voce. Beh, è stato un po' di orecchio di radio, la grazie a Dio. Quindi capito, ti ricordo che questa è la voce di Claudio, capito? Quindi, allora è qualche altro, ma ho detto Claudio, è subito. Va bene, dai. Di nuovo, io sono contentissimo, veramente di cuore, sono contentissimo perché hai fatto un grande compito e soprattutto perché hai avuto un impegno proprio strategico. In sordina, alla grande, veramente complimenti. Ok, buonanotte a tutti signori, a domani, doppio root, non ci pensare, abbassa le voci che quel signore ti suona il muro, ciao. Ehi, buonanotte. Che sono dovuto andare all'escorso perché non mi volevo far mettere l'antenna, mi ha detto chiama a noi, non c'è problema, se ci sono problemi chiama a noi. Computer fatto. Bravo Luca. Se avrei vinto la linea stanno facendo un casino qua quadrato. Ehi, Leo, ma sono contento. Ciao Claudio, buonanotte alle prossime. Ciao Luca, ben ritratto. Quindi ha vinto la playoff con Pompi. Cecoslovacchia, quindi non penso, penso che abbia vinto per forza, mi dove quello che fratello, quindi vuol dire che ha vinto la Dinamo, senz'altro. Sono contento, dai, qualcosa di positivo si lascia di cazzo. Molto non ci abbiamo più squadra di calcio, almeno quello ci porterà il nome avanti, dai, dai. E via, ma quelli riprenditela. Oltre che a Gianni, fate diventare anche Pomponi ora di Vattore, tanto non credo che abbia problemi lui. Aspetta, io già sto diventando mandante, atto che aveva attore, a tentare giù la mamma. Il momento qua da proprio non ci penso nemmeno. Ecco, infatti la prolunga e porti il cavo giù da tua madre. Non è così facile, no? Stare con l'anziana che c'è l'Alzheimer non è così facile con tua madre. Devi fare i turni, poi ieri, guarda, ieri erano le comiche perché siccome si mette a parlare da sola con lo specchio, mamma pensa che si guarda lo specchio, pensa che sia una ragazza, gliene frega la roba, subito scende giù con la pernice del muro, tu figurati, col pennello e pernice, tutti lui gli specchi, mi ci sono in camera da letto, quindi figurati cosa ho dovuto fare ieri, perché almeno per non sentirla più, guarda, perché mi dava un fastidio quando si incazzava, portatemela via. È un po' brutta la situazione, vabbè io quando mangio la mattina e mi guardo nello specchio non mi riconosco, mi viene un assusto. Ma proprio non si riconosceva nulla, diceva che c'era quella lì, che l'avevamo portata a noi, non so da dove, eccetera, eccetera, mamma mia. Tutti i giorni così, poi si incazzava, diventava rosa, noi ti diceva magari, pensavo magari diceva un itis, qualcosa del genere, come si incazzava, alla fine sono aggiunto un coso, due sole cose, ho verniciato, allora ho preso e ho verniciato tutto, e a me sono rimasto tranquillo, ieri sera era felice, ridendo, ha giocato male, almeno ho finito i problemi per il momento, comunque sono tornato a Claudio, eccetera, eccetera, tutti quelli che ci sono, e a quel cane morto di Elio, cazzo, che fa le cose zitto zitto. Sole meglio, Pompo, sole meglio. Lo so, stamattina c'è una fotografia vostra su Facebook, l'ha messa a te, fa, del sole nero, eccetera, eccetera. Ah, no, non l'ho vista, no, sono andato su Facebook, vabbè, non è libero, tutto così in atto. Sicuramente da giovane, buco, avevo solo, forse capito qua, che me l'ha parlato, e via, buco, però ecco, ho fatto sapere anche perché la chiamattina. Andare, ha ripigliato per una seconda, guarda bene, una bella come si vede, con calma, che oggi è stressato, ho detto, si stressa, allora, io rimango con voi, almeno fino alle due. Elio. Dimmi già. Un attimo, c'è come sono salito sul tetto a piazzare l'antenna. Ho dovuto fregare quello della manassata, gli ho detto che mi serviva la chiave perché non si vedeva bene il televisore. Mi ha prestato la chiave, mi ha fatto il doppione e ce l'ho tuttora. Scusa, non ho capito. Perché non ti aspetta che per il doppione c'è la chiave del tetto, scusa. Perché a quello della manassata che l'ha lavorata per qualsiasi cosa, magari che succeda sul tetto, ce l'aveva in dotazione solo quello della manassata, capito? Ma il tetto è praticamente una parte comune a tutti. E beh, certo, sì. È fatto bene. Ma io spero che la risolvi questa situazione, perché insomma non è bella, pensandoci bene. Non è una bella storia, spero che questa sia il giornale, infatti mi era prevedibile, mi era prevedibile proprio il sangue, che si è gelato, no, cosa obiettivo che sia. Ti faccio vedere l'articolo, ce l'ho conservato, il giorno che ci troviamo te lo faccio vedere. E vabbè, ma così cerco di arrivare all'ultimo serale, dai, no, cioè, così non si affitta la mano delle persone, mi affitta la mano degli animali. Insomma, se uno si mette, uno va a mettere l'articolo sul giornale, ma è ovvio che è una carogna, non è un essere umano, è una specie, dai, stiamo parlando di un'attività amatoriale, quella del 27, quella no, non ci vedo più. Se lo serve, non sto facendo droga, a casa, sto a casa. Dai, non so, serve, Vabbè, Luca, non c'è Luca che finito con questo computer. Sto a posto, Luca. Luca si è preso nel computer. Marcolino, riprenditela. Io mi ricordo che quando dovevo prendere la patente di guida io ero molto insicuro e temevo un bel, no? Io sono andato a scuola guida, ho ascoltato solo quello che diceva l'istruttore, no? Il libro no? L'ho toccato poco e niente, anzi posso dire anche di non aver mai studiato dal libro, eppure sono passato la prima alla patente di guida. E invece c'era gente che veniva puntualmente bocciato ogni volta che andava a fare la patente, ma poi che certi sono arrivati a pagare il famoso scandalo, a pagare le scuole guide per regalargli la patente. Quindi magari è così anche con la patente dell'allenatore. Certo, lì l'istruttore non c'è, al limite può fare un corso, non so se le sediari facciano corsi di preparazione. Qui si studia il libro e magari passa alla prima, ma non te ne rendi conto. Avanti. Io a scuola guida non per vantarmi, ma ero più bravo che c'è. Infatti detto scherzando all'istruttore che mi avevano bocciato, e mi ha detto se non bocciato a te, non bocciato tutta la scuola guida. Io ne sapevo il gruppo e ascoltavo solo quello che diceva come te. Non toccavo un libro né niente, ne sapevo troppo. Poi vabbè, con gli anni non si studia più e cose, perdi anche la memoria. Infatti io ho 18 anni per la patente, io non so se adesso riesco a immagazzinare nozioni. Ma ho visto che io all'ultimo corso che ho fatto in vita me la sono cavata bene, 25 domande su 25 ho risposto, quindi vuol dire che con la memoria non mi inganno. Quello che, vabbè, le due formule sono separate da memorizzare, perché le formule vanno memorizzate e anche se potete applicare. C'è abbastanza matematica, non è che mi piace anche la matematica, però se non vuol tentare, poi non si è obbligati naturalmente. Io so che il radiatore è più controllato, deve fare più da bravo, eccetera. Al baracchino puoi sventiare un pochino, al limite nessuno ti dice niente. Sì, vabbè, bisognerebbe avere un comportamento ecco anche al baracchino, però diciamo che si largheggia di più, ecco. Ma comunque, se tu dici, c'è uno, guarda, io sto seguendo sui 45 metri, su 40 metri c'è questo qui, cavolo, che mette la messa, l'Ave Maria, di tutto e di più fa. Allora, a 7070, come ha detto Claudio prima, che sono quei bucarotti, che sono tutti strapotenti, insomma si comportano male. E io ho sentito invece a 6590 dei pirati, chiaramente pirati, che però stavano parlando da signori, come radioattori. E poi ci sono anche comunque gli animali anche sui 45 metri, però io ho sentito più volte, ovviamente in un'altra frequenza, non quella degli animali, gente che parlava correttamente, parlava anche di cose tecniche, cioè la patente radiatore non è che ti qualifica come brava persona, corretta, anche quelle bestie a 7,70 hanno la patente, però è come se fosse nel 27, capito? E bisogna vedere se ce l'hanno pure la patente, secondo me è gente che non vi dà brutti, perché se ce l'hai sprecata. No, già dico denominativo, è che non hanno vergogna. Non lo so, non temono niente. Non sono persone che hanno il culo parato, scusatemi il termine. È da tempo che sono da anni che continuano a comportarsi così e nessuno gli dice niente. Quando arriva uno praticamente che non è forte a fondo scala, dico ma c'è in basso, la tua antennina non rende molto, capito? Sono anche così, mi strapotenti. gente che non sa fare radio, non so certo radioamatori qui, radioamatori qui li già si conoscono, ce ne sono persone veramente in gamba che parlano di cose serie, di, che scherzano anche, però educatela, sono quelli per i radioamatori, sia il 27 che la banda radioamatoriale, o noi, l'educatore si vede tutte le bande. C'è un codice neurologico, cioè non è che soprattutto sulla banda materiale, che quindi starà con le regole. Poi come va bene tutto, c'è chi non lo fa, però adesso per esempio prendiamo delle persone anziane che arrivano a una certa età e iniziano ad avere problemi, poverine come la mamma di Altorello. La parte del cellulare, ma fai questo cancello e da 23 ore fino a un falcone sulla 27, ma su 40 lì, capito? Proprio così, con le persone già per le lui la patente, ma no, perché stanno male, psicologicamente, capito, stanno male. Purtroppo c'è un tempo e quindi ti ritrovi lì a rompere le balle, basta. Però prima o poi spariscono, capito? Come spariscono per tutto. Mi ascoltate adesso? E io? Allora, adesso sono con meno di mezzo watt. Sarò pari o meno di mezzo watt, tipo 400 milliwatt. Così sono proprio immutate. Sì. Qua sono dei riti con più watt. Se no voi 20 qua. Ah, figurati. Elio, come arrivo da te? Per il passaggio, io sono col manium adesso, quindi questo smitter è un po' tirchio. Fai il passaggio. Ehi, guarda, portate molta, 400 milliwatt. Allora, mi stai arrivando, sentivo di 5 e una radio di 4, però tieni presente che ho detto, questo smitter è un po' particolare, ma soprattutto per tutte le radio che sento, perché ne arrivano tutte più basse, invece con la tua l'altro magari più di fedele, in questo c'è sempre qualche di differenza, adesso non so quanto perché non li misurate, però capito, secondo me dovreste essere più 7 o 7, capito di 5, quindi là per buono per quello che ti sto dicendo, comunque mi arrivi, ti sento bene. Tanto da passare qua a Renna, che ancora vedo che è... Va bene, avanti, buon Pugnus, bevutala la birra. Tu hai attaccato la bottiglia come il biberone ancora. E io, va bene, queste cose mi attira sia anche a me la amatoriale. Naturalmente se uno si prende un bibanda per dire veicolare, conta che non ha l'SSB, cioè se si prende il normale bibanda sono solo FM, è molto meglio avere sì, in macchina, parlo, e poi in casa è chiaro, che sia tipo Yaesu 857 che funziona in SSB anche in V e in U e non è poco. Sì, no, vabbè, no, io per la macchina non sono molto all'entrata, cioè non mi piace avere le macchine, non so perché, ma forse perché la uso meno, non la uso molto, no, quindi per me sarebbe un attimo di correzione, purtroppo, riesco più una stazione fissa perché sono più libero, quindi riesco più una stazione qua fissa. Il veicolare è bello perché se uno gira o per lavoro o per altri motivi c'è sempre lì, capito? Nel frattempo che stai guidando ti fai un EDX, ti fai una chiacchierata con un amico se trovi vicino, insomma, fa parte della giornata anche quello, capito? No, io non avevo avuto in macchina, l'ho avuto sai quando ero ragazzo, avevo la macchina e l'unica cosa che avevo utilizzato con l'apparato per portare gli autobutti del comune di Sassari quando c'era stato un incendio che era partito dal Ghero, che era arrivato sino alla pineta di Palaio. E io con la mia macchina facevo scuola dalla 131, esattamente dove c'era il ristorante, dove c'era il distributore, prima del di Platamona. Là li prendevo gli autobutti e li portavo sino a facevano la scuola alla Sassari lì, capito? Io ho il contatto con i vicini del fuoco, portavo le automobili dove erano loro per ricaricarsi le loro cisterne, solo perché l'ho utilizzato, ho dato colpo di mano e basta, capito? Però così no, tenerlo così adesso non mi interessa, se riesco più un apparato fisso, capito? Eia, sarà che io ho la mania delle stazioni piccole, per esempio a me i famosi Galaxy Saturn ci piacevano, belli, tutto ciò che vuoi, però sono inutilmente ingombranti. Io a casa ho sempre usato veicolari, anche per le mani amatoriali, per me, ripeto, sia in macchina, forse anche a casa, l'857 sarebbe perfetto. Diciamo, vabbè, un po' datato, perché c'è già un po', ci sono altri apparecchi allo stesso quadribanda più moderni, però mi attira quello, è piccolo, sembra un baracchino, e insomma c'è quello che serve, HF 50 V e U. Sì, va bene, è come il coso, il 2000, c'è un 2000 che fa 50 e c'è le V e le U. Io preferisco più in quel caso di tre apparati, capito? Tre apparati distinti, uno fa 50 e altri due che fanno uno, le U, le A, capito? Non so perché, preferisco più separata. Lo so, molti preferiscono proprio gli apparecchi separati, quello HF, quello V, quello U. Poi ci sono anche queste stazioni base che fanno tutto, HF 50V, addirittura c'è la versione X che fa i 1200, che francamente richiedono antenne particolari. Poi vabbè, hanno più filtri, hanno tutto, capito? Gianni, come ti dici? Era un attimo in quell'X. No, già c'è un qui. No, ma tutto bene, non è che qualcuno ha bussato al muro. No, sono andato a cambiare l'acqua di urine. L'acqua al pesce. Certo, voi lo sapete che io sono, allora, dalle 4 stamattina, non so ma quello sono adesso, perché manco l'oro mi sono portato, vabbè, c'è lo dietro, mi sono bloccato la batteria, che l'ho cambiato, e non so che ne so, cazzo, sono sveglio, ancora sveglio. C'è un treno, vedi? No, è l'adrenalina 1000, ti giuro, quando sono arrivato lì stamattina, che siamo entrati, c'è questa documentazione, tutto qua, tutto presentato, tutto qua. Allora, adrenalina a mille. Quando sono uscito fuori che mi ha guardato tipo e fa scusi, ma ha finito? Gli ho detto no, veramente ho fatto solo 25 domande. Ho detto ma quelli che ne bastano 18, ho capito, ma io volevo fare 30. Però sinceramente 25 adesso ho la testa un po' fusa. Ma faccio perdere scherzi. Vabbè, sono uscito fuori, avevo ancora la mani a mille, avevo ancora le mani che mi tremavano. Ti giuro, proprio di venire a mille, e tuttora adesso, cioè sono ancora a mille, infatti non dormo, non ho capito. Caffè ti ha fatto? No, non ho preso caffè, stamattina sì, prima di partire sì, però c'è un remate, poi a Basana, lì non ho, perché ho aspettato gli altri, che c'è la gente di Olbia e della Maddalena, ci sono trovati lì, e loro hanno fatto colazione, con caffè io ho preso solo una pasta, la verità. L'unica cosa che mi sono permesso nella sala dove abbiamo fatto l'esame, mi sono portato una bottiglia d'acqua da un litro e mezzo di acqua gassata, l'unica cosa. E ogni tanto mi giravo e cannavo, c'era quella ragazza di Lusetta, cosa fai? Ti stai facendo? Ti stai facendo il tiro? No, aspetta che devo stare lì a buttare la testa, adesso mi voglio rilassare e poi riprendere. E così ho fatto, capito? Hai fatto bene. Io vabbè là. Adesso è andata io. Quindi che cuore in pace, con qualche apparecchiatura, antenne e via dicendo. Sì. posso operare, ecco, anche in una situazione dove è già abilitata, provinciale, posso anche sì fare il secondo operatore con il governo che è già detto l'altro. Però non mi interessa avere, se no adesso sto tranquillo, mi lascio le spalle tranquillo, e questo va anche altro bene, ma nel frattempo, diciamo che mi capiate l'intanto, tanto che dopo il Roma tirano su, solo già. Chiedevo se che problemi non ce ne sono. Chiamava Pomponio, e via, 2020 via. Non c'è problema. Preparati spazio, tagli un po' di alberi. Non c'è la vigna giù, ci sono segnaletti di vigna, non c'è manco l'albero, c'è solo la vigna. Sto ancora a volta con la miseria del vino, la vigna, ma quella non la tocco. È ubrisia. Cosa stavo dicendo, ma giù la fai? Che cosa? La stazione da OM. Sì, sì, in quella casa che è casetta che mi chiedo giù. Sposterò tutto lì adesso, piano piano, metto un posto di letto, sposterò alcune cose, lì farò la stazione della via amatoriale, che è una pianta di 4 metri, no, 5 metri per 4. Due stazioni stancate, con la mattoria e con la CB. No, metto tutto là, no. Metto tutto là perché lì attaccate quella casetta che mi sento. E lì c'è stato il traliccio a fianco alla casetta, capito? E da lì tagliano tutto. E così ce l'ho di fronte a casa, capito? Invece di passare qua dietro. E questa la tengo sempre come casetta per lì, come era prima. Campagna. La casa come è fatta? Sempre in legno? No, quella è muratura, piastellata, travaccata, tutto. No, quella è proprio ben chiusa, c'è una porta dietro blindata in ferro da 10 centimetri e c'è anche la lavra, tra l'altro lì. Ma quella cosa la usavi per le butti del vino? No, lì dentro c'è la cattura di lavoro. Capito? Siccome adesso la parte devo farla fuori perché non la uso più, la serratura, e quindi mi rimane una parte vuota e lì farò il banco nuovo, metterò gli apparati lì piano piano, no? Prima oggi uno e poi gli altri piano piano. Ciao ragazzi. Prendete che vi ascolto, questo qui in ascolto con te, se non disturbo. No, c'è 45 litri. Non ti ho sentito Marco, mi siete solo modulato. E gli ha già, va bene, dai, se vuoi rimanere in ascolto. Oppure com'era questa birretta fresca? È abbastanza fresca. Comunque la lima lo dice a pezzo Giampiero. Se non so se erano questi, forse si erano rumeni questi che sono andati a festeggiare, magari che ne hanno fregato i capelletrici alla. Lì al quadrato, guarda adesso io. Ma qui cosa stai dicendo? Oh, ho capito bene, ha perso la dina. Eia, ha perso, mi si è chiamato Giampiero. Io subito ho sentito questi qui suonare col clacson più di mezz'ora, ci ho detto boh, e mi ha vinto la dina. Poi ho fatto Giampiero e mi ha detto dicendo abbiamo perso per un paio di punti, mi ha detto una cosa del genere. Allora gli ho detto questo deve essere lui, mi stanno festeggiando senz'altro che siamo fregati i capelletici dopo che ha vinto la via, no? Ehi, un attimo. Adesso con Pomponio non abbiamo problemi patenti di niente, ci andiamo 45 metri. Credo che non c'è coraggio di andare 45 metri io, ce lo sai, quando voglio ci vado. Ma aspettavo che dicesse così. Ma Gianni sta andando via. Oh, non lo so, Gianni. Ho detto che sono in ascolto. Vi saluto tutti. Ciao Gianni. Ascolto già, sentiamo poi domani quando capita. Va bene. Ciao Gianni. Stavo facendo quei. A domani. Alle prossime. E ancora io mi dici oggi che non crollo. Non vuoi pagare la beretta un ingegno, quindi chiacchierai metti della benzina, salì a Sassari, se no ti sgonfio un cazzo. anch'io. Dall'antenna BB10V e simili. Falcon OUT 250 perché sono una barcata. Vabbè, appunto che sono verticali. E praticamente una canna fresca di alluminio e dentro c'è un controide e poi è piena di resistenze. Dice ti attenua così tanto il segnale che i risultati di questa antenna sono imbarazzanti. E non ho capito per di che te ne stai parlando, perché ci sono, oppure mi stavo dicendo una gaggiata. No, basta, scherzata. Antone, se vuoi bere la sera non c'è problema, basta che scendi qua, trovato, abbiamo la cantina e via. Ma è bello che mi tocca 5 euro a pagare per scendere di lì, cazzo, non mi conviene, per 5 euro cazzo, è meglio che bevo al circolo qua. O sbaglio? No, sbagli, perché lì te ne vedi 5 euro, qua te ne vedi anche 40-50, scusa. No, cazzo, è una cosa diversa. A me mi accompagnano, quindi bevono poco. Se avessi bevuto come bevo io, sei tranquillo, sei rimasto lì in giardino a dormire vicino al cane. No, ma tu lo sai che se non scendi tu, non guidi qui tu ti fai portare, no? Come sempre. Cazzo, così ne approfitti. No, no, saranno, ya lo sai, quando scendo, vediamo quello c'è da bere e basta. Sai tu questa se qualche volta, cane morto, cazzo, sì, ma sei mandolone, sì, cazzo, pigliati la macchina, ce l'hai, sali qua, sassari. Ci troviamo, al limite andiamo in qualche circolo, vediamo qualcosa al circolo e te la tronchi in quel posto, te la tronchi. Ehi, dai, domani pure è sabato, ehi, se per caso sono domani. E sinceramente sono un po' stanco, domani è un salto, dormo tutto il giorno invece. E bubu, non so come mi comporterò, sinceramente. Perché poi, è vero che mi sono alzato alle 4, ma non ho dormito dalle 11 alle 4. Non so come tanto, mi sono addormentato alle 11, ma e ci devo voler dormire. Sono tutte le formule che mi passavano in testa. Io studiavo di giorno, più che altro. Poi mi divertivo anche. Allora, Marco, stanno dicendo che l'antico sta caduta nella canola per scacciare le resistenze che è pieno di segnali di ricezione. No, allora c'è questa antenna, che è solo una delle tante con il nome simile, si chiama Malkoth B10V. È quella che ti avevo segnalato io, che ti avevo detto con 180 euro c'è l'antenna, praticamente è lunga 7 metri, è di alluminio e alla base c'ha un toroide e c'è un bel di resistenze. E praticamente la resa in trasmissione è imbarazzante. Chi l'ha provata ha detto che è una cagata, non serve a niente. Che sa, il bazooka sta uguale. E con quel filo qui c'è il bazooka originale, non serve a tutto un cazzo. Quando gli ho cambiato il cavo e gli ho messo il cavo da 2 mm e gli ho fatto la carica da 5,50 m, come l'ho attaccato dentro al circolo di coso che ci vi ha trovato, tu immaginati che rimane sotto terra dove sono i bagnacci, sei venuto anche tu, quello di Nico, il fratello di Giuseppe, sopra alla cassetta della birra, lì 9,10 a Claudio, con un baracchino 40 canali. Vabbè, ma è alto lui. Ma perché c'è da Claudio è alto, ma lui è in basso me. Hai visto dove sono i bagni di Nico? Sono all'interno proprio sono, quindi non uscirebbe mai con un portatile da lì. Eppure se stiamo senza lui usciva bene. C'era 1,5 stazionale, quello che vuoi con l'antenna, però usciva lì in trasmissione bene, con 40 canali, quindi modello vecchio, figurati. E poi l'ha piazzata in barca con l'antenna, che ho fatto io. L'antenna l'ho smontata, l'ho ricostruita io all'interno della carica. Via. Volevo chiedere io, le domande, hai trovato una domanda particolarmente difficile o insidiosa? Ma quelli diversi ce n'erano, c'erano diversi. formule, trasformare, c'era un po' di... poi c'erano capito, quelli ci sono, erano male con l'altra. Però vabbè, se si mette qualcosa. E poi vabbè, normative. Che cose, se vuoi, le domande a bocchetto, è come quelle della patente, ci sono le domande a bocchetto, quindi devi sapere, devi essere lucido e capire dove ti sta portando la domanda e dove ti sta portando la risposta. C'erano anche qualche facile, la verità, c'erano due o tre, facevano vita. Vabbè, molti magari sono sbagliati, non so, io perlomeno mi sono trovato bene. Devo dire la verità, perché sono arrivato, ho fatto le pinocchie, ho fatto subito, però come ho aperto il foglio, ho tre fogli, mi sono guardato, questa sì, ok, le pinocchie le ho fatte proprio nei primi 5 minuti, la verità, anche se è stato un po' deficiente perché c'era il tempo, però erano belle sanzioni, le classiche domande che sai. E quindi come la propaganda che ha la sera e ti ha punto e con gli occhi veloci quelle prime erano poi piano piano sono arrivato a 14 e gli altri piano piano hanno cazzato, ho detto minchia, non ho come sono 4 e arrivo a 18, poi da lì ho iniziato a ragionare su quelle 4, alla fine mi sono trovato con 25 domande, io infatti volevo arrivare solo a 18, però in realtà e sono andato avanti, ho fatto tutto il tempo, ho capito, le faccio, andava, come va, capito. Eravamo 30 le domande, mi ha risposto 25, di cui ho saputo erano tutte 25 esatto, con un po' di piacere insomma. Quindi 30 domande, ma basta farne 18 e si è promosso, così è? No. Se ne fai 18 esatto, si è promosso su 30, sì. Attenzione, però se tu ne fai 19, continuano, ah no, aspetta, se ti fai 18 e ne sbagli una, ti tolgono 0,25 punti, nel senso che se tu ne sbagli 4, ti tolgono 1,8, quindi non sono più 18, ma sono 17, capito? Quindi non passa. È un casino, anche questa sera qua io perché non la sapevo, sono andato prima, perché io pensavo che fosse un 18, poi magari mettevi due sbagliate che sempre 18 ne avevi, invece no, ti trovo 0,25, capito? Quindi se ti ne fai, non so, 19, ne fai, no, aspetta, che sono 22, no, e ne fai 4 sbagliate, si fu. Ecco, sì, comunque meglio fare il più possibile, insomma, giusto possibilmente. Io a Tonea, io Marrano, ci compriamo un libro, i libri che cominciamo a studiare. Vai, poi capi vai, non faccio niente adesso. Per il momento qua non sto neanche pensando, ma c'ho altre cose sulla testa, Marco. Sto pensando, come tutto il lavoro, non sto pensando dove al baracchino, prima di tutto, cioè anche se mi avessi pigliato la patente. Io ti pido la patente se non c'ho la macchina. La prima cosa è che io ti la patente se non c'ho gli apparecchi. Cosa faccio? Pido la patente e faccio la figura dell'imbecille. Non c'ho solo a comprarmi, mi devo vedere magari il direttore medico di casa a comprarmi il PS2000 e antenne e cose. Non ci sto neanche pensando, guarda. Io sono povero, per il momento, e rimango povero. Mi adeguo a quello che ho. Quando avevo un po' di soldi, allora piglio il patentino, c'è sempre tempo, guarda. Mi piglio il patentino, spendo 5-6 mila euro tutti in una volta e mi faccio una bella fazione a casa. Ecco, eppure me, il campo c'è già qua. E lo so, Antone, che tu c'hai con la storia lì, eccetera, eccetera. Ma io per me dicevo, scappa c'è già, allora, per VU basta portarti le carrega un'antenna auricolare e poi va bene locale oppure su già sul Ponte Cisa, per dire, no? Per i primi tempi. Ah no, no, ma che mamma è, sono pensando mai tutto lì. Quindi non sto neanche pensando addirittura alla cosa, alla patentina. Sto facendo i turni con Giampiero, Giovanna e mia madre, non si può lasciare sola, capito? Quindi intanto sono neanche lavorando, il problema mio adesso è con la cosa mia, sento lavorare, se per caso c'è qualcosa a mamma è un casino, mi tocca lasciare questo lavoro e andare per dire alla cosa, che non succederà mai, ma ci siete spaventato, capito, perché con quello che c'ha di notte, a qualsiasi momento della notte mi vengono i cosi, gli incubi, perché può cadere, hai capito, e mi tocca portarcela di là, rimanere tutta la notte di là, e quindi non facciamo la domanda per una donna, e allora sono un pochino più libero, di momento non si può fare niente, adesso stiamo facendo la domanda per l'accompagnamento, per una persona a fianco, mamma, tutta la notte, siamo da dormire tranquilli noi, capito? Purtroppo è così, vale, tu ci sei in mezzo e quindi non puoi saperlo, io ci sono in mezzo purtroppo ed è così, non sai qual è il giorno, qual è la notte, perché se dormi sempre spaventato, già è caduto un paio di volte, figurati, ed è un rischio, purtroppo per noi, per mio fratello, perché se dovesse magari succedere che si fa ben male, che potevo fare questo coso, ci arriviamo in galera, lo sai, in corto affidamento, è purtroppo un casino, adesso voglio che si sistemano piano piano le cose, se le cose in seguito vanno meglio, si può anche pigliare magari il patentino, ma per il momento c'è la stessa delle altre parti, prima per il lavoro, poi per la questione di mamma, e quindi non posso farci niente, purtroppo. Vabbè, giusto. No, da me era minore la cosa, la mamma era giù di morale, poi depressa perché senza lavorare si sente più utile, poi era caduta da quella scaletta, si era fatta abbastanza male al polso. E meno male che non si è fatto altro, va bene, dai. Avanti Elio. No, vabbè, le cose mi hanno fatto, le cose tranquillità, perché io quando hai alle di secondo familiare. Certe cose dobbiamo fare con tranquillità, rilassata, se no rischi di fare cagare adesso. E adesso mi sono fatto un problema a casa, non mi sono andato a fare quello che devo fare adesso. Ero più libero in questi mesi e ne ho approfittato, nel senso di studiare, non so niente di notte, sia punto e basta. Non mi ha prego, io però ho qualche di più, allora magari se sono aggiunto anche capito, queste cose. Sono d'accordo con voi, adesso prima la famiglia è la prima cosa essenziale, soprattutto i genitori, poi tutto il resto viene da sé, con tranquillità, sono d'accordo. Ma comunque ragazzi, io usato me ne vado a letto, perché forse mi ha veramente bisogno. Spero di non segnarmi altre formule per riguardare la cosa strana, mi ero trovato a dormire e allora la spero un buon risveglio con tranquillità e ne riparliamo. Ciao cari, a sentirci, a domani. Ciao Pomponio, ciao Marco Nino, buon Gianni, se fatto quelli che io stato all'ascolto, un saluto a tutti gli ascoltatori, buonanotte. Ciao Luca, se sei ancora attaccato al computer. Ciao Edi. Ehi, ciao Edi, ci sentiamo domani. Dimmi, ci vediamo se sei a se stavo chiedendo se non c'è niente da fare, io guarda il computer. Che hanno messo il video di bene tutti di questo, se non vuoi bene bene. Nuovo oggi. Ma nuovo che senso? Nuovo di Ciucucciù, nuovo. Non c'era prima, l'ho visto oggi per sbaglio, guarda. Stavo rovistando la cosa che ho e ho visto news, video porno, vedevo di queste. Lei con quell'argentino. Ancora, ma quella voce va. Cosa vuoi dire? Io ho visto per sbaglio stasera quel cazzo che so io. News c'è scritto. Il video del 94. Io cosa c'è? Nel 94 mi cacciavo il computer io. Che cazzo? Figura di due. No, era una vecchia. La roba che avevo pubblicato già da due o tre anni fa. ragazzi, buonanotte e buon quelli di quello che ciao ciao. Ciao, vediamo, buonanotte, ci sentiamo alla prossima. Io nel frattempo ho rimesso tre volte, perché sennò casino. Ma quei problemi c'hai, Marco? No, novità non ce n'è altro, nessuna novità. Nessuno si fa avanti, nessuno mi dice niente. Non sono ti voti, non è che mi devo mangiare il problema io. Va bene. E purtroppo Antonio, questa storia delle antenne di molti. E di molti condomini potremmo dire, perché non capiscono che come loro hanno il diritto, pagano il canone, hanno il diritto di avere l'antenna TV, tu paghi il canone tuo, chiamiamolo canone, contributo, e devi poi usare la radio. Poi naturalmente io posso fare il possibile per mettere una stazione un po' più addirittura per in regola. Io ho messo questo filtro anti-TV-Like che non avrei dovuto mettere perché già l'antenna è stata stazionaria in questo periodo omologato, l'ho messo giusto per non si sa mai. E questo mi chiama, mi sente nel televisore. Allora c'è tutto un punto, bisogna vedere come è fatto, se ho piano l'antenna, se ha amplificatore, se c'ha televisore anteguerra e roba del genere. Io fino a un certo punto posso mettermi a posto, ma poi devono metterci a posto anche gli altri. E appunto per quello che ho detto l'altra volta, rimando a fare una bella gaggata, capito? A parte certe foto così, che non si presenta come cognome, è un pochettino una cosa strana. Comunque sia, foto, tu chiama la baracchina, uno di questi giorni, aspetta, io lo chiami, ascolti, siccome Leo Mercafo non si è presentato, vuole sapere chi è lei, mi avete rifugiato che sia il numero del telefono mio, non so chi sia quell'imbecille che ne ha dato, dici, comunque sia, se approvi mi telefoni per dire, e la cosa si risolve, perché sono in colpa mia, sono proprio di sui, giusto, appunto. Non è che uno ti chiama così, ti minaccia e grazie a voi, io ci andrò subito a cagare, a parte di tutto, anche se fosse fatto di fronte per dire. Perché avrei fatto proprio, io non disturbo nessuno, tu non disturbi nessuno, ne passo, tu non disturbi nessuno, ne passo di forza per tanto, disturbi solamente questo qui, gli altri non si sono lamentati, quindi vuol dire che lui c'è, ha problemi, quindi fottitene. E dormi tranquillo Marco, te lo sto dicendo. Entra tutti i giorni e fregati. Prima può vedere se la giusta il televisore. No, diciamo che si è presentato, ha detto un nome e cognome. Il nome non me ce lo ricorda, ma sempre il cognome. Il problema è che io non lo conosco. Anche se dice il nome e cognome, dice, vabbè, mi siamo vicini, ma io non so chi è, non so da dove è uscito, se è davanti, a destra, a sinistra. Adesso aggiusterà la cosa. Comunque mi non voglio che facciano nemmeno scherzi all'antenna come quella volta che l'ha buttata la volta a sinistra, perché se danneggio l'antenna gli faccio causa, se dicono di togliere l'antenna gli faccio causa, gli faccio comunque causa, capito? Se mi danneggiano proprio la come dire, se danneggiano fisicamente l'antenna o se fanno cose sconsiderate, diciamo, non me ne metto problemi. Sì, vabbè, ma che mica le fanno il palazzo tuo, no? Cosa, se tu disturbi di fronte, cosa gli deve frega il palazzo tuo, cioè via, tu ma se non disturbi il palazzo tuo, poi degli altri fregatene, non sono problemi tuoi, sono problemi di loro, a un certo punto. Qui c'è la fotocopia del decreto dei seriali, passi qua, te la prendi e te la fai, non è un problema per quello Marco. C'è la fotocopia fissa qua giù, vado a casa, mi fanno le fotocopie gratis, quindi te la fai, poi magari ce la vai anche tu senz'altro, ma comunque sia, sei in una botte di ferro, anche perché c'è le concessioni, quindi fregatene di quello che se qualcuno ti telefona. Sei tu, non ti subire il palazzo tuo, sei tranquillo che non mi sogni tranquillo, non è che uno dei palazzi di fronte che nessuno chiede all'amministratore di avere le chiavi e cosa dice l'antenna, ma ti è scherzato, non esiste quello, e non me lo mangio cazzo. Facciamo una prova, FM veloce, Antonello. Vabbè, facciamo fatto un'altra volta con la FM, con quella pari che voi siete da adesso. L'altro giorno, sarà 15 giorni fa, mi sembra. No, non è farla un attimo. Poi ti dico. Pochezza, prova. Praticamente inquilino del padrone del terrazzo. Vi ricordi l'antenna come era vicino a quell'antenna TV, no? Del padrone del terrazzo, lui non ci abita, mette inquilino. Io che ne so se davvero questo qua, nome e cognome, è un inquilino. Nessuno mi ha detto niente, quindi io non posso saperlo. Quando ti chiamerà, glielo chiedi, se abita nel palazzo tuo o se abita nel palazzo di fronte. Se abita nel palazzo di fronte, ti già ascolti, a me non mi interessa niente, io nel palazzo mio non disturbo. E cosa è quello? E il fatto che non ti ricordi con chi questo qua dove ha detto che abita, il discorso è quello lì. Torno a quello. A questa volta che ti telefono mi ha detto cagare per dire. Ti rimane sempre il dubbio. Ho capito che tu c'hai il dubbio, magari non sai che magari sia un inquilino, quella magari c'è un'antenna attaccata alla tua, ma quello non è un problema, se fosse per quello lì. Qui c'è una cazzata. Gli spostiamo l'antenna sulla televisione, la mettiamo un'altra parte e se la piglia in culo. Qual è il problema? Come spostiamo l'antenna sua? Ma va così? Così accidente, non costa nulla ascoltare l'antenna sua, della TV. Allora vai messa a fianco a te e piglia e la sposti dall'altra parte. Io ci sono le gaffe delle antenne senza palo. Gianni, doppio rompo. Siamo qua. Inteso, Antonello. Andiamo di prepotenza e spostiamo l'antenna del vicino. Così non disturbo più, sei lui. E se mai spostate la tua? So che la mia più che lì non può stare, perché l'altro lato del gabbiotto mi pare piccolo se con le antenne. Poi la mia era storicamente da 92 che è lì. Abbiamo rifatto anche il palazzo una volta. E qui per le mie muratori, lo sai che Antonella e Gianni, loro le redici 48, qui per le muratori, andando a scalperare il muro, no? Portarlo a pietra nuda, hanno tagliato il cavo, cioè l'hanno visto e l'hanno tagliato lo stesso, con lo scalpello. Ho chiamato il capocantiere, avevo fatto casino, ma se ne sono accorti. A tuo cazzo è nero su rosa, non avete visto il cavo. Io ho chiesto, no, adesso mi cambiate il cavo. Allora quello, ma so, così, non possiamo cambiare. È che era cavo di cacca, se no, se rovinano questo sì che glielo faccio cambiare. 100 euro, 50 metri di cavo. Farò sempre così. A un altro gli avevano tirato l'antenna, gli avevano detto che gli avevano tolto l'antenna, non mi ricordo se era Delfino, boh. Io già mi guardo sempre l'antenna, già. Quando esco, guardo se sto a posto, se c'è gente sopra, che ho vari punti di osservazione. Se vedo l'antenna che oscilla, che la stanno toccando, lo salgo subito su. Beh, dai, possiamo ripassare in arma volendo, E non è la cabina. Dimmi già. Che è la carabina? Però peccato che è solo aria compressa, ci voleva un 308 o un 3007. Ma forse di niente, ti Mario Martesi. Te ne immagini a culo, quello magari poi si sbilancia, cade dal tetto, cade dal palazzo e si schianta, la colpa è mia. Invece che tu mi spari a lui. E Gianni, ho notato una cosa, con questo filtro anti-TVI, normalmente ho 3 watt e mezzo, col filtro scende a 3 watt, ho messo il watt e mezzo dopo il filtro, si mangia un po' di potenza, lo sapevo già, però mi pare che sia il 15% di potenza, il 15,7% di potenza che si mangia. Sì, sì. Quel filtro TV che hai messo, la verità, non ti è dato più nulla, è una vergata. Avere il filtro TV hai. Io non l'ho mai usato. L'unica cosa che ho usato io penso più che sono andato alla centralina, ho preso regolata, perché qui c'avevo l'ambizio di mettere la malettona, hai capito? Allora la avevo io. Anche con 100 watt non che volevo tu. Anche con 600 addirittura non lo avevo. Facciamo una striscia alla centralina. Vabbè, ci sono i palazzi più su, c'è scarpa, ci sono le antenne più in alto, c'erano, fatte verso la mia antenna, ah, non è che cazzo, c'erano 92, vabbè io non sto entrando, e magari pretendono, siccome l'antenna è puntata verso la mia, perché la direzione del ripetitore è quella, fanno, ti dicono cose strane, folli, tipo di levare tutto, questa è gente matta, matta proprio. Vabbè, comunque io questo filtro l'ho messo più che altro per essere sicuro. La remota possibilità con la scarpetta, no? Che faccia i TVI con questo si elimina, anche perché Antone, scarpetta mia, l'RM tabelle 203 raccomandano di mettere il filtro perché la modalità di uscita è con molte spurie armoniche, cioè con questo filtro diciamo è norme CE, capito? Sì, a fatica del filtro tu, non le metto la scarpetta che è meglio. Per come la penso io, poi non lo so, vedi tu. Allora ti dice tu, vai il filtro, non hai usato niente, ti vuoi, cazzo, filtro. Per quello siamo di lineare io, ma in modo da beccare il televisore, non se la metteva più, cazzo. Io. Comunque, il magnum, spuglie, ha molte spuglie. C'è l'FM500S, 598SX e quel cazzo di baracchine che vendono 500 euro, tutti modificati con l'effetto eco, il doppio modulatore. Non te lo piace in casa una cosa del genere, cazzo di subito tutto avvicinato dei tubi. Come metterti in galera e basta. Quegli apparecchi purtroppo sono fatti solamente per usare in camion, in macchina e basta, non per altro. Perché se piace una cosa da tenere in casa, da tale sono le spughe che sei costretto a prendere la parte della Vinessa, tu di qui. Sì, Antonio, ho sentito che c'è l'Omega Force. Cosa sai che con il Top Gun Modoletto ha inserito, quella è una fabbrica di spurie. La lì di uscita di quella parete in quella modalità è terrificante. Forza qua. No, lo so, io non mi ho usato la sua parete. E io ho fatto in quella parete che sono fatte in adesso, ho voluto mettere un attore, tutte le cose che mi mettono dentro, che è come attaccare l'uscita di un CD direttamente diretto e comincia a mettere una pescazione alta che non c'è neanche bisogno del promulatore e comincia ad allargarsi la ragazza di banda in hertz delle spurie che non sono nulla, sono 10-15 decibel, figurati, cioè non dei decibel, 15 kHz. E quindi vedi tu il casino che succede, ma quello lo usavo io per spatterare a chi volevo, per dire. L'unico modo per ammazzare era quello, o attaccare l'oscillatore, o attaccare l'uscita audio di un... Allora usavo un registrato, adesso si usa il CD, allora c'era la spuria. Aspetta, ci siamo sovramodulati, Antonio, un attimino. Allora, ho detto, Gianni non l'ha visto l'ultimo arrivo. Antonello già lo sa, Gianni non l'ha visto. Display è color ambra, non è simile all'Omega Force. Ehi, ho capito, forse quasi. Ti ricordi che avevo detto la sigla? Cerca, Neum, Delta Force. Display Ambra, qualcuno se lo fa blu, ma è brutto. L'originale è Display Ambra. Sì, l'avevo già visto, mi pare, ma l'avevo già fatto vedere. È bello. Ehi, la disposizione dei comandi è così, no? I tastini quadrati, eccetera. Naturalmente ha molti meno watt, meno della metà in USB, in SSB, cioè. A me ne ha pochi, ma io lo preferisco, lo sai, perché i lineari nel caso vanno pilotati come ho fatto, visto che la radio ne giova di più. Va bene, FM no, in FM non te ne frega, non distorce. No, sempre con parenti, Marco, drogato. Allora, se io conto a maggio dell'anno scorso. A questo maggio, sì, non so manco da dove ne sono usciti. Ecco, poi va bene, una passione. Hai visto? Bravo, ti compravo la patente amatoriale, senza manco fare l'esame. Corrompevo uno dei commissari. Compravo l'apparecchio e le antenne. Così non mi piace. A me piace darle di bravura le cose, non perché pari. A me piaceva molto l'S9 anche. Però è troppo caro, troppo caro. Minimo 3,89. Allora, da quello più onesto. Sugli altri lo vendono chi 4,15, 4,30. Un po' caro, troppo. E vuoi comprare il mio a vedere quanto costa? Sì, poi cosa ci hanno di fatte? Ancora i rischiore 500, no? Io 500 con la spedizione mi è venuto. Eia, con quell'S9 mi è sempre piaciuto. Non so se abbiano risolto i difetti della prima versione, perché aveva slittamenti di frequenza. Sul sito dicono che l'ultima versione è migliore, è migliorata. Bello Smith, ventaglio, ma so cosa troppo. Sono proprio usato, il 27. Poi non mi fido già, non so, sono prevenuto, non mi fido. Tu mi capirai, la roba è nuova, quando è nuova sai cosa ci hai fatto, cosa non ci hai fatto. Ma tu la roba, la seconda mano non puoi prendere solo da me, almeno sai che lo ritorno. Antonio, la sua Gianni è affidabile, non si discute troppo, è affidabile. Certo che già, a meno per dire, tarare un trimmer dello smitter è una fesseria, è una cosa proprio da scuole elementari, da asilo. Devo aumentare la modulazione lo stesso, quello io, però dell'altro non tocco niente, niente. C'è gente che gira medie frequenze, bobine, tutto gira. Dimmi Antonio, per stare di dentro. No, sta bene. Sta facendo negoziante questo periodo. Già, se c'è qualche sedia che non si sposta. Ma io la visita Antonio non è blocco, non li apro mai. Se c'è qualche problema li porto dal tecnico e faccio aggiustare, lo sai, no? No, non sto vendendo nulla di qua. A faccia non vendo nulla. Ma io cosa vi volete comprare? Comunque sto dicendo, ma ha cambiato ecco il microfono già, quello che mi avete trovato il giorno, quello di Tessa Delta, nelle TV, provato hai? No, perché non l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato io e alle 10:30 non c'era, abbiamo aspettato sino alle 10:10 e non c'è venuto, e allora se ne sono tutti andati, capito? Comunque penso che nel 5 io esce benissimo con quel tipo, mi lo sai. Succederà il MB5 se non ricordo male. Attaccaci quello e vedi un po'. Ho scambiato con Stefano, lui mi ha dato il salente e l'ho dato il MB5. Ma attaccato nel barattino adesso, nell'apparecchio. No, no, è attaccato quel giorno, che siamo sentiti, volevi fare la prova. No, perché avevo lo spirito idio. Ah, allora già devi attaccare domani, se sarei assassa io. Al limite te lo prendo lo spinotto e ti fai l'aggancio, tanto già lo sa lui i contatti quali sono. E poi mi sembra lui c'ha già usa Velta, già programmato per il cable, se non ricordo, ma adesso non ricordo se quello arancione quello c'avevo io o l'altro. O cosa se no. Non forse quello che andava, no, quello lo sto usando nel coso, nell'S9. L'Ecomastitus mi sembra che era. Forse quello arancione che c'è ancora l'altra col keyboard, non me lo ricordo esattamente. Posso. E vabbè, comunque va bene anche questo, lascio questo per buonanotte. E vabbè, ma non conta niente a provare, perché lui l'ha provato, la verità. C'è qualche meno si provi nel tubo, questo lo sto dicendo. Ci ha messo l'MB sta facendo benissimo con la verità, senti con che volo? Sta facendo benissimo, mettici, vabbè, domani mattina se non c'è nulla a fare, vai e prenditi uno spinotto di quelli lì, ti fai gli agganci e sei a posto. E vediamo come esci. Non ti costa niente, forse inizia a messo in ferie. Domani mattina probabilmente vado a pescare. E vabbè, ti costa due minuti, passare dal fusaro al DBC, poi vai a pescare. Vabbè, che tu vai alle 5, ma quando rientri, al rientro ti fai la passeggiata e te lo prendi domani mattina. Non penso che stai tutta la mattina buttato lì, no? Se non facciamo una prolunga, molto ci vuole. Ti fai scappare la prolunga? Qua come sta facendo le balle qua questo qua. Al numero 4. Non si sente. Non so che si sente, sono bella questo, è molto sensibile come tipo di microfono. E poi che cosa stai usando? Il cavallo del 9 sto usando, non lo senti? No, il microfono. Questa è l'erba CB CM40 special nero con pulsante rosso, c'è il volume del coso, c'è la come si dice, il compressore, quello vuole al mio. E allora vedi, già va bene, attacca, non ti costa niente, c'è il compressore microfonico. C'è due cursori. Questo rumore di schiuma. Ah, sentito, vai. Oddio, vai. È stata dalla mattina al bicchiere. Si è sentito qua. Tipo quella che era il telefono indico. Guarda, questa è la mattina, la verità. La mattina c'ero distante dal microfono, quanti centimetri, figurati tu. Allora posso fare anche così, qua. Una persona che libera espresso, quelli di capito. Si parla e libera espresso. Oh, e cosa c'è di alto livello a livello di rose, Schwarz? Ce ne sono altre macchine, non preoccuparti. Credo che fosse il massimo. Bene, è roba della NSA allora. Tranquillo, come stanno cercando a te. Quindi non ti devi mettere preoccupazione in testa, fregatene. Per muovere se ci vogliono contanti, se quello c'ha contanti, non è più come una volta, amiche, come facevo, si faceva la finanza, per dire, quello non mi ha fatto pagare lo scontino per il caffè, telefonavi e veniva subito la finanza, adesso non si muovono più, mi. Ci vogliono soldi perché tutti quanti facevano la spia uno con l'altro. A un certo punto poi si sono trovati incasinati, quindi hanno preferito muovere tutto. Quindi fregatene, Marco. Per muoversi, ti ho detto, ci vuole 500 euro. Io non penso che quello di fronte ci abbia 500 euro per venire a casa tua, quindi. Stai tranquillo, dormi, sogni tranquilli e fregatene. Sì, ma l'ho manco detto domani. Un giorno esco posto e a me viene di fatto. No, sai perché, Antonio, ci può essere gente così cattiva che rispenderebbe pur di bloccare la tua attività. Gianni, digli. Un sacco di cose in testa, fregatela, ti ho detto, fregatela a tutti i lini, lascia perdere quello che ti ho telefonato. Lui va tranquillo, beato e fregatene. La prossima volta che ti telefona, fai come ti ho detto io, a tutti i lini. Capite? Dici io mi sono permesso di telefonare a lei. Lui come si è permesso di telefonare a me e avere il numero di telefono mio. Quindi ha violato la mia privacy, dici. Quindi, dopodiché, io sono a posto, lei è a posto, dice. Le antenne nuove ce le ha? No, l'amplificatore perché facciamo un cesso da 30 euro? Sì, e allora si arrangi, si tenga i problemi. No, quello deve essere a sorpresa. Se non è messo in regola lui, si chiama qualcuno, voglio che lo sgamino. Sì, sì. No, chiedo solo. Sì, lei ha detto che è stufo, sì, Quindi io cosa devo fare? Ci devo buttare tutto, antenna, apparato, capace di dire, sì, ci devo buttare tutto. Ma dico, ma io non ci penso nemmeno. Continuo a pagare il coso, il contributo, continuo a usarlo. Se c'è qualche dimostranza, chiami chi vuole, chiami i carabinieri, chiami la Guardia di Finanza, chiami l'Ascoradio, così controllo la mia stazione e anche la sua. Controllo l'antenna e tutto. E poi mi basta poco, ci sono sei dettorugli da mettere due stabi che vanno le casse, quelli da 2 a 30 megas e ti elimina il problema. Perché uno l'ha provato, avrebbe il vicino, lo sentiva nelle casse dello stereo, ci sono vari giri del cavo delle casse intorno al toroide, no? Sai come si passa? Ecco, il problema risolto. E appunto perché si sente nel coso, nell'audio, tutto dicendo. Quindi non è problema di... Sopravvivi sui, sopravvivi l'amplificatore che ci ha inserito in che sa cosa c'ha col televisore. Quindi fregatene, ma con che mi te li problemi? Cattivi buoni di problemi per niente. So che è da fastidio. Però io quando ho avuto problemi qua di fronte, appena me ne sono fatto tutti i coglioni, la verità. Sono parlato con lui, ho detto, ascolta, dove sono le cose? Cioè le case di 40 anni fa, gli ho detto, cosa vuoi pretendere? C'hai ragione, sono stato CB anch'io, c'hai ragione. Ah no, ho detto. E tu io non è che ci parlo sempre, gli ho detto spesso come a baracchino, qualche volta quando parlo, gli ho detto, quando non gli ho detto sto avanti mesi senza accenderlo, quindi devi pazientare. Se non ti compri le casse nuove, ho detto, non credo, mi capita, ho detto un paio di casse, con la verificatura, ho detto te lo regalo io, gli ho detto, tanto noi. A volte avrei detto mi capitano e non mi costa niente, ho regalato un paio di casse amplificate per il computer. Ci sono i cassoni in piedi a Sassari, io ho detto, non mi costa nulla. Gianni, sei ancora? Sì. Oh, dicevo della categoria delle persone, che il vicino tuo, se avesse avuto davvero 500 euro... Cioè se avessi avuto la possibilità economica magari te li avrebbe pure chiamati pur di farti smettere l'attività. Se lui voleva far togliere l'antenna, non sono stati d'accordo gli altri, se non me la faceva togliere. conosciuto io, figurati. Ma lui c'è un vicino che è fidanzato con una ragazza, non so come cosa, è polacca, cosa cazzo sia, ma lui è tutto scemo, la verità. Quindi, quella un, cioè, non è che gli ha detto di quello, è capace di metterlo alla scala, salire sul portetto e staccare le antennami, è che mi metto scemo, la verità. Non è che ci siamo di mente, Non è quello lì, a quello lì sono babboni di marinato. Quello lo conosco, te lo dico, te l'ho anche raccontato, che anche mi è salito sopra a me, e c'era la moglie, la, non so se non la moglie, la fidanzata era, sembra mezzo polacca, non mi ricordo che cazzo era, si è salito sopra e mi ha detto, mi ha detto cosa per la parabola, e tra colpi sono due cose, ho detto, se sali su gli tiro il martello. Io ho detto, il lavoro lo sto facendo io, ho detto, lui pensa a farsi i cazzi su, lui mi ha risposto, che io avevo fatto 28 anni di manicomio, non so se gli conviene, gli ho detto, ha preso il bene, mi è fuggito, è rimasto giù, non si è più mosso. Quello è ruda, ma quello mi è scemo, sai cosa mi ha fatto? Mi ha piantato la, una pianta di quelle che pungono, di quelle grasse, che le fanno le foglie grandi, proprio vicino alla moto. La giubilea dove ha tenuto spazzata. Non so come sto scemo quello, non ho avuto l'esperienza io. Sai, adesso fa il tetto. Non ne sai, io avrei già un tetto, cazzo, mi doveva dire cazzo come cazzava la parabola, cazzo. Immagini, dice la mia ragazza, dice che aveva detto che non mi ripolatti, come ricordo che cosa, e ti ascolta, dico, ma hai problemi, ho voluto tiro il martello, gli ho detto. Ne ho proprio girattimi, a me se sceso giù subito, a che foto ho telefonato. Quel tipo in questo mezzo pazzo, non lo porti più di qua, gli ha detto. No, la moglie. Sto dicendo, cazzo. Non sei più per me salirmi niente. Capito? Ma quello era proprio per i fatti suoi, quello era capace anche di essere nella scala. Non mi pensa di essere sopra. Prima ci ha fatto salire nelle scale. E uscivamo lì. Poi un giorno ha pensato la scala e non ho visto salire nella scala, cazzo, dalla cosa di giù fino al tetto. E gli ho detto un cosa, gli ho detto cosa ci fa lì qua. E io sono venuto qua, non so che cosa, e poi faccio la cosa, e poi sono scendendo giù e ti ho rimattato in testa, gli ho detto. E lo sto avvisando adesso, gli ho detto. Cosa ho trovato usare? Lui dice, non voglio mai più questo, quello è pazzo, ti manda Emanuele, a lui non lo voglio. E la vai, gli ho detto, a cosa, non esiste, no. Perché tu tutto meno male, sei fortunato di tutto quanto in ghiaia, quindi sei a posto e più tranquillo. La parabola rimane agganciata ancora il tappe a V, sotto, appena esci dalla porticina. Mi sembra che sulla destra, se non mi ricordo male. Sto qualcosa, ma tu la parabola se l'hai messa? Io ho pensato la parabola è anche l'antenna TV di lì, lo sai, con l'amplificatore. Nel palazzo tuo. Figurati. Ma non sapevo che abitavi tu di lì. Allora non c'era l'antenna del baracchino. C'era solo l'antenna TV e la parabola. Poi il baracchino è nato e ci è passato dopo. Ma tu non potrebbe chiamato perché la parabola non stava facendo in testa, c'era due tassi di fini, ne ha varato tutto. La sede a 10 mi ha fatto mettere, cazzo vuoi ti dica? No, colpa mia, no. Mi la usai, che gli ha detto, guarda che questa roba ne scende. No, fregatene, mi ha detto. Già, va bene. Poi mi ha fatto fare la gentiera un giorno, cazzo, guarda la gentiera, penso che le gaffe, cazzo, mi si buca la palla a 1,20 m, cazzo. Ha giocato bene, mi so che gli avevo ragione io. Ma io non sapevo niente che gli arrivava il maestrale. Ci portava via tutto. Io con io sono sceso con Stefano, figurati, il compratore di Luca sono sceso. Col furgone, un giorno di lì, erano due, erano letti in moglie, erano in gamba. Il giorno che sono sceso lì mi hanno offerto, mi hanno invitato a pranzo, porcetto, di tutto c'era, figurati. Era un'azienda piccolina, non lo ricordo ancora, cazzo. Ogni rigore di gatto l'ha giovato, aspettando quella parabola, cazzo. E ma poi non l'ho voluto stare io, le gaffe erano piazzate io, però a centro del tetto c'era un'altra parabola, mentre vedi, siccome ne avevo fatto due, una per cavare 5, l'altra non mi ricordo per cosa, per la vai era, e sono fatta via, tu figurati. Fa forza e il vento la butta giù. E cazzo mi prende, cazzo non puoi dire pieno di cose mi, cazzo mi ogni passata di coniglio che c'era, vedi una Stefano, quando è salito con furgone, ha preso un coniglio in pieno e con furgone, ha preso, si era caricato in furgone e se l'ha portato a casa e l'ha mangiato. Dopo l'Argentina. E l'Argentina proprio, tu figurati. Era proprio, non mi ricordo come si chiamava lui, è stato con la moglie, però era un tipo in gamba, era. E non sai infatti che li ha truffati, capito? La profeta li ha truffati perché erano gente per bene, capito? Sai quante volte scendevo io, cazzo, per dire, c'era che con Stefano, io volevo rimanere a pranzo, rimanere a cena, no, me ne sto andando, era tutto finito, per arrivare a lui dovevo fare questa strada e c'era un dirupo. Il minimo era 15 metri, se sbagliavi poco ci scendevi il fuoco del tutto e ti trovavi, e io ti stavo non ti trovavo neanche a entrare. C'era una parte c'era dall'altra, c'era un dirupo da una parte e un dirupo dall'altra. E poi per arrivare a casa, in questo caso di azienda. Ma sarà stato molto pausa. Non lo so, c'era un costone, la verità c'era dove di vicino a lui c'era il costone, dice quando vuoi dice vieni qui. E vieni ti prendi il sole, stai al mare, mi ha detto, abbiamo la scaletta, dice per scendere giù, dice fatta nel coso, era bello me l'ha detta. Fino ad arrivare c'era la spaghetta sotto c'aveva, tutta roba sua era, di questo fatto qua. E poi sarebbe rimasto in marzo morire. Quel periodo si lavorava la verità perché lavoravo bene, era nel 94-95, figurati. Massimo 2000, poi non mi vesti più, la verità, perché mi sembra che avevamo cambiato azienda, si erano saliti a bancari, perché lì non gli piaceva più e avevano dato in affitto. Parabola 120, provano a ricevere Marte. Perché ci voleva. Parabola 120, puntata a Obertera. Figurati, invece a 13 gradi est ho avuto bisogno di pigliarmi dai 1, dai 2, dai 3. E basta. Con la parabola 90. Qui c'avevamo due parabole. Una che è stata Giorgio Grassi, al centro del tetto. L'altra invece nell'angolo era, quindi quella che mi sono andato via era quella centro del tetto. Se la tutta l'ha trovata via, sai cosa vuol dire pigiata, no? C'è una parabola di plastica da 1,20 m piegata, che quando la metti nel tetto, cazzo non c'era più le. Rimaneva sollevata dalla parte ovale sembrava. A proposito di parabole. Dimmela. Era parabola, grosso modo era puntata, no? Direzione e altezza giusta. Però mamma si lamentava che i canali io erano squadrati e sparivano. Noi abbiamo preso quel satellite Finder, quella specie di rosmetro di smitter, tacchi all'uscita dell'illuminatore, no? E su una scala graduata ci fa vedere l'intensità del segnale, in più fa il beep. Più forte il beep, più è centrata. L'ho messo al minimo della sensibilità e non saliva. Poi alla fine ho visto che in una determinata posizione, sia di orizzontale e verticale, proprio dava il segnale pieno. E lo spostavo di un millimetro, ma un millimetro, più a destra, più a sinistra, più in alto, più in basso, spariva. Arrivava alla scala zero. Ma è molto utile quello per tarare le parabole. È una grande da risalgosa, tu prova ad andare al monte e all'ingresso del monte che punti per avere il tubirdi e puntare a ripetitori che sono lì a posizione della vista della cosa della SIT per puntare lì Il problema è che pigli il segnale del ripetitore, perché se fa 900 mi resta è quello, hai capito? Quindi oscilla. Non hai capito niente, quello è cosa un finder, che sta dicendo tu, diceva da 900 mega si sfida in 1300, hai capito? E quindi, quando tu fai appuntamento con l'illuminatore, si prende il ponte radio, ti prende anche. A volte suona anche quando prende il muro, che ti dà il segnale fondo scala. È un cesso con l'aggeggio, perché è un cesso. Hai capito? Per fare l'appuntamento vero e proprio come se deve, devi prendere il ricevitore, accendi il ricevitore, ti metti il televisore vicino, fai appuntamento, ti guardi il livello del segnale, quando hai a manettone, risulta se per un ricevitore da film, che c'ha le quello smitter, si chiama lo smitter come voi, vabbè, il segnale digitale che arriva fino a 80%, 90%, capito? Sì, il puntamento si fa così, non con quella aggeggio là, perché quello suona ugualmente, in qualsiasi posto lo punti suona. Per dire, magari tu sei convinto che sei su YouTube, magari sei su Astra, scendi giù, controlli e magari il segnale non ce l'hai, c'è un'altra cosa, devi fare tutto la ricerca dei canali nuova, hai capito? Quella aggeggio non serve proprio a niente, ecco perché non lo uso io. Io uso solamente il ricevitore, piazzato col televisorino piccolino attaccato all'antenna, pochi centimetri all'antenna, per dire un metro e mezzo, e mi guardo il segnale, quindi quando vedo che il segnale si vede nel TV, da ricevitore, piglio, sta con tutto, se la piglia in culo, capito? E sono a posto. Quindi io le cose le faccio così, non con quell'aggeggio, quell'aggeggio è falso, non serve nemmeno quello, questa organizzata non serve proprio un cazzo. La verità, sempre le cose che provare sopra, sempre un televisorino, e io dice Vittore, se no lo sgarri, sbagli, capito? Dammi in retta. Allora, fatto sta che io ho centrato perfettamente il satellite e adesso prende tutti i canali visibili bene. Guarda, l'ho puntato per prova poco più in alto, più in basso, adesso si prendeva altri segnali e poi ricordati che 10 giga al satellite scendono a quanti 2000 e tanti di megahertz, non è da 900.003, è più in alto il segnale convertito dall'illuminatore, è più in alto di 900.003. Guardate quelle cose fine, c'è scritto la frequenza dove oscilla, è fotte dimmi, è la mia retta. Comunque sì, non l'ho mai usato di quella cosa lì, anche perché siamo trovati un sacco di volte con Manuele, facevamo l'appuntamento, tra l'altro scendevamo giù e si vedeva un accidente. E cos'era? Il ripetitore della SIP che c'avevo di fronte, che oppure il muro, quindi lascia perdere Marco, te lo sto dicendo, mi sono portato su sempre io, per esperienza, te lo sto dicendo, mi ricevitore vicino col televisorino, anche che televisorino con i 6 pollici, quello che è agganciato da quei ricevitori Sky, oppure i cartelli, come li vuoi chiamare, o quegli altri in modello vecchio, che hanno quella scala che ti dà il segnale 10, 20, 30, 40, 50, e poi ti fanno per dire 8 bird e altra, per dire che ti raccoglie subito. Siccome c'era già il canale memorizzato, ti raccoglie subito perché se per caso hai sbagliato il puntamento. Comunque i gradi di inclinazione sono sempre 40, 38 o 40, non di più. Dipende da come è pezzato il palo. Di solito sono 7 a 40, se il palo è a piombo. E poi basta girare 13 gradi retto, c'è poco da sbagliare. Beh, dopo questo non l'ho detto. Ciao a tutti. Vi dico che invece ho parlato benissimo tutti i canali. A parte che c'era mamma e dalla finestra diceva così si vedo tutto. No, me ne sei accorto, c'era. Infatti mi è regolato la minima sensibilità. Certo che se tu metti quella potenziometro tutta la vita, ti piglia tutto, ti piglia davvero allora cellulari e tutto quanto. Io l'ho messo al minimo indispensabile. Per esempio quando metteva il segnale arrivava a 5 è il fondo scala. L'ho regolato apposta per essere selettivo il più possibile, là. Se uno funzionerebbe la TV attore, non so se avendo l'idea. Buonanotte. Ok, ciao Gianni, buonanotte. Io ho capito, Marco, so come funziona l'aggeggio. Una volta che c'è la scala che fischia, deve andare diminuendo, piano piano, finché il segnale non sia al massimo e basta. Però non sai cosa stai puntando, perché fischia, capito, dove trovo, che cosa fischia? Se c'è il ripetitore SIP, fischia lo stesso, te lo sto dicendo. Tu non devi essere mai accorto, ma io siccome ho avuto esperienza, ho avuto 7 anni di esperienza su quel fatto di che sto dicendo, io per non fare salire e scendere nelle scale e arrivare al cliente, guarda che io vedo se è vero, perché a me mi ha segnato il segnale, e quindi lui dice, io non vedo un cazzo, forse non è come il cane, capito, ma mi diceva, io non vedo niente, se poi mi segna fondo scala qua, dice io non vedo niente, cosa l'avevo, cazzo cos'era? La potesse autobirte, per dire. Hai capito? Perché c'è poca differenza, mi dà tutto da 40, c'è poca differenza a quei gradi. E quindi, a meno che non ho più di due cose assieme, se la mia colpa devi impostarlo naturalmente, perché se con la ricevita devi impostarlo. Devi metterci l'oscillazione, per poter tirare tutti e due i satelliti. Comunque sì, sto dicendo, io mi sono abituato a usare il pendolo ricevitore e il televisorino, quindi non sbaglio. Me lo porto sopra il tetto, non costa niente. Basta un cavo di vento, una presa a scarte con due cavi di RCA, l'aggancio direttamente della parabola al ricevitore. Una volta che io mi sono visto che avevo i programmi dai 1 e 2 e 3, che ci sono sentati bene, qui del modo tutto. Come mezzo equivalente, è il modo più veloce e più sicuro pure. K Gianni, buonanotte, ci sentiamo alla prossima. Eia, no Antonio, comunque conta una cosa, che io non ho piazzato la parabola, cioè proprio da caso, era già sul satellite, quindi ho migliorato la visualizzazione, io l'ho mossa di millimetri salami, Antonio, e che ero proprio con la parabola nuova a installare. No, ma poi il televisore in mamma dalla parabola non ce l'abbiamo sul terrazzino, era distante tipo 6 metri, lei mi diceva anche quando vedeva tutto, vabbè comunque ha fatto tutto per il meglio e di che. Posto la parabola è arrugginita, sicuramente si può migliorare ancora di più, perché essendo arrugginita a parte diciamo, e poi il segnale non lo riflette più nell'illuminatore, capito? La parabola costa intorno ai 25 euro, se non ricordo male, compreso il illuminatore, da bricone, basta prenderlo, non costa niente, e la ripiazza in muffa, c'è l'illuminatore, poi se ti vuoi mettere l'illuminatore a 2, e prende l'altra autobiet e ti fa dei programmi tedeschi, in digitale, dove ci sono anche film porno addirittura, figurati tu. Aspetta, non è che corro in bagno un attimo. E anche io se me la vado a pisciare la faccia tua. Finito di pisciare, fino a porto. Qualcuno? Io già che ho pisciato io. Sei distato di 3 minuti all'anima, cosa hai bevuto? Acqua aranciata. No, non è per quello, è un'altra cosa per me. E mi sono fatto un taglietto sulle parti basse. Dico, trombato troppo. Ti ho fatto un taglietto per parte basse. Cazzo, come ti sei fatto la tipo incisione per trombare, cazzo, mamma così, come i negri. No, a me la circoncisione me l'hanno fatta a 14 anni, che per problemi di scappellamento, capito? E poi vabbè, le ragazze erano contente. No, sto scherzando. Sì. Io saprei grattagrata, ho lacerato un pochino la pelle, lo scrotto, quindi adesso che palle, aspettare, perché è molto sensibile, no? Io allora con l'unghia gratto e poi si apre la pelle. Capito. Cara. Scusa Rida. Che autolesionismo, vai, sto scherzando, però mi ci trovo davvero così, grata grata, di vizio ce l'ho, devo fare quel vizio. Vabbè. servizio. Sentivo una ragazza che aveva iniziato a togliere, che l'ho cassa tutti i giorni in casa. Sento gente che chiama sotto, chi è? Stranieri? Avanti, avanti, Italia chiama, Italia chiama. Io non sento nessuno. Prima ho sentito salire segnali, sentivo come una modulazione. Forse in AM, però. Io, capita, è già l'una. L'una e 22. Antonio, allora chiudo, dai. Svesto, vado in bagno e poi sto a letto direttamente, là, se no, tardi, là. Ci sentiamo, Antonio. Appena posso, passo. Ehi, d'accordo. Ho attaccato un microfono amplificato alla quello che la parte mi ha tutto una bomba esce adesso con la palmare e del 6 cazzo non sembrava manco lui cazzo hai visto io credo fosse da buttare invece ancora va sono contento là. Va bene Antone ci sentiamo allora alle prossime buonanotte via ok tra l'altro da qua non si muove l'apparecchio è il camera da letto e le cose hanno fatto lì ci sentiamo domani e stai bene e per te sveglia di mettere adesso la macchina state svegliarmi a mezzogiorno dopo domani mattina con chi sono che ti canta adesso no la sveglia è alle 10 o comunque il baracchino è tuo quindi lo puoi vendere regalare quello che puoi ma non serve. Sì, vabbè, io lo so, ma io ho fatto una promessa, no? Ho fatto uno sbaglio già una volta, ma vedi mi chiamo, non volevo parlare la seconda volta, hai capito? Io non fare queste sulle basi, non me ne frega un cazzo a me di avere sono in mano. Io non ho bar qui, se voglio andare per dire, ma grazie a Dio sto bene adesso. Sono tranquillo, almeno quello. Scusa che magari mi sono attaccato in galera, ma sono stato un discorso diverso, ma grazie a Dio adesso qui no, che ci metto con le palle. E quindi non si muove. E lì. L'unico pentimento che ho fatto è aver dato il 80 la verità. Solo quello. Perché mi sono incolato a stasera vecchio io, che arrivava la luce 150 euro per volta. Quindi due cose, ho. Diciamo questa casa qui ancora, se avevo, avuto quella, questa casa qui la prima, questa l'ho avuto più, anche più di quello l'ho avuto, solo. Purtroppo le cose sono. Non si possono programmare, quindi io mi sono dovuto adeguare. Vabbè, già si ricopre un. Non so, un coso, una bella apparecchio. Anzi, il sogno mio è quello cinese. Adesso si vedrà. Capito, bisogna buscare la persona giusta, aspettare e magari avrò la fortuna di averla, niente di strano, sarebbe un sogno cazzo avere una parità del genere così in casa cazzo, lo metto su Facebook, lo metto su YouTube, l'unico coglione in Sardegna ad avere una cosa del genere cazzo. Ehi, perché quella in Sicilia c'è già, ne manca qui. Il bellino, infatti ero curioso anch'io di vederlo e provarlo, però non capisco perché non ha preso piede, cioè perché Marino, praticamente dicono, ma è Marino, ma è uguale, è la stessa cosa, al Volseo hai due tasti per andare su e giù di frequenza, quindi esce anche bene, riceve bene, i filtri giapponesi, andava visto, sì. E Tone, lo confermo il cuore tira, ci sentiamo le prossime. Via, ok, signor Romani. Ciao, buonanotte, stammi bene. Buon tutto, bene possibile.